stelle mi fanno compagnia. Anche resto qui seduto su questo divano e viaggio un po' con la mia fantasia, tra mille ricordi e mille volte che ho sentito dire di che non devi scappare da me. La luna e le stelle guardano da lassù, resto sempre qui su questo divano mio, provo un po' a dimenticare, intanto scrivo una canzone che forse può far bene. Ti provo un po' a immaginare che cosa stai facendo in questo momento. La luna e le stelle mi fanno compagnia, bevo un po' di vino e mi fumo una sigaretta e guardo la finestra, questa nottata andata ormai, che sono le 3 del mattino ed io non ho dormito niente. E così passo il tempo davanti alla TV, una sigaretta, un bicchiere di vino, ma la testa certo lì a seguire la TV, quello che dice. Sono ormai le 6 del mattino e non ci sono più la luna e le stelle. Un raggio di sole entra nella mia finestra ed io che sono ormai stanco, e così dormo sul mio divano, non ci penso più.